Linee d'ombra di Matteo Caccia. Adesso quando ci troviamo e tutte le volte riproponiamo questa storia ci facciamo tutti una bella risata. Erano gli anni della nostra spensieratezza, è chiaro che poi la vedi con un altro occhio. Venne il gran giorno della partenza. Fummo accompagnati alla stazione di Brescia da mio fratello con una spaziosa Ford Escort rossa. Eravamo in cinque e in tasca avevamo 100.000 lire a testa. Storie di vacanze al mare e di trappole televisive in una puntata che si intitola Scusi, avevo frainteso. Parla. Ti ascolto. Chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami, Truman. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie, gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. Io ti conosco meglio di te stesso. Non ho una telecamera nella testa. Tu hai paura. Per questo non puoi andar via. Questa è la parte finale di uno dei film forse più visti degli ultimi 20-30 anni. Sicuramente uno dei film che ha fatto più scalpore per come raccontava il controllo costante che viene effettuato su ognuno di noi tramite le telecamere, che non sono solo quelle televisive. Truman Show è il finale di Truman Show, in cui Truman, tutti quanti ce lo ricorderemo, sta navigando con la sua barchina in mare e per tutti la barca vela, il mare, rappresentano un ideale di libertà, e lui si scontra contro una parete, contro un muro, e lì capisce che il mondo è finito, o meglio il suo mondo è finito, e oltre quella parete comincia un altro mondo, che è il mondo libero, è il mondo di tutti noi, che lui ancora non ha conosciuto nonostante sia un uomo molto molto adulto. Ve l'abbiamo raccontata questa storia, l'abbiamo usato questa intro per cominciare questa puntata, perché la puntata si intitola Scusi o frainteso, e ci saranno due storie molto molto diverse tra di loro. Una riguarderà una storia simile a Truman Show, è la storia di un comico giapponese che viene letteralmente buggerato e gli viene fatto credere, lui ha anche bisogno di soldi, ha bisogno di un lavoro, gli viene fatto credere che farà uno show televisivo, invece viene letteralmente segregato in una stanza dove delle telecamere lo seguiranno, lui rimarrà nudo come un verme per giorni, settimane, mesi, fino quasi a un anno. Sì, diventerà una star, ma a quale costo? Con quali spese anche sulla sua sanità mentale? Si chiama Nasubi questo personaggio e vi racconteremo la sua storia. La prima storia invece è una storia che racconta molto dell'estate dei nostri anni passati, è l'estate di quasi 50 anni fa, in cui il protagonista, che è Giancarlo, ci racconta di un piccolo grande fraintendimento avvenuto durante una di queste vacanze spensierate degli anni 80, direi fine anni 70, primi anni 80. Ora però, prima di cominciare a raccontare, voglio ricordarvi anche che oggi è giovedì 23 di luglio e oggi è di fatto il penultimo giorno in cui siamo in onda con delle puntate originali che appartengono a questa annata di Linee d'Ombra, questa prima annata. Da lunedì andrà in onda una sorta di meglio-dì, abbiamo scelto tra le migliori puntate di questa stagione e andrà in onda da lunedì prossimo fino a fine agosto, ma non alle 15, alle 16, insomma lo sto ricordando, è dall'inizio della settimana che lo ricordo, perché è comunque un'ora in un palinsesto radiofonico è poco, ma nella vita di una persona è tantissimo, quindi probabilmente da settimana prossima vi collegherete e ci sarà ancora Carlo Genta e i suoi soci che parleranno di sport, e subito dopo alle 16 cominceremo noi con le migliori puntate di questa stagione. Però noi non molliamo la nostra raccolta di storie, quindi vi invitiamo a continuare a mandarcele. linee@radio24.it, ci serve una storia di una o due pagine che abbia a che fare con un vostro passaggio di confine, cioè con una vostra linea d'ombra, qualcosa che ha cambiato il vostro modo di essere, piccola o grande. L'importante è che ci sia stato un passaggio, appunto una linea d'ombra. Ora mettetevi comodi perché cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. luglio 1976, un lunedì qualsiasi. Nella piazza assolata del paesino dove vivo, 1500 anime nella bassa bresciana, eravamo solito ritrovarsi come tutti i pomeriggi dopo pranzo noi amici prima del turno lavorativo pomeridiano. Si conversava di motori, di ragazzi e di discoteche. Nella piazza sostava qualche vettura, tra queste però catturava la nostra attenzione una Alfa Giulia 1750 ancora fumante, un bolide di colore verde metallizzato. Apparteneva a un piccolo industriale del paese che, come tutte le estati, portava la famiglia al mare, anzi a Gatteo Mare. Partiva il sabato mattina e tornava il lunedì, raggiungeva la famiglia, numerosissima, in vacanza permanente. Involontariamente questa persona faceva da apripista, visto che ci andava lui, anche qualche suo operaio e non solo, nel periodo agostano, chi per paraculismo, chi per curiosità, chi perché se lo poteva permettere, seguiva la beneamata famiglia nella località romagnola. Noi avevamo 17 anni e al mare ci eravamo andati solo con le noiose colonie estive in età scolare. Eravamo però suggestionati dai racconti di chi al mare ci andava davvero e si pavoneggiava di avere rimorchiato l'anno prima qualche turista d'Oltralpe in cerca di avventure. Eravamo in 8 amici inseparabili, tutti coetanei, ragazzi già molto svegli. Infatti nel tempo libero, dopo il lavoro, avevamo pure costruito una piccola sala da ballo in un monolocale adibito tempo addietro al ricovero di bestiame. Tutti sapevamo fare qualcosa, chi il muratore, chi il tappezziere, chi l'elettronico. Il localino era molto bello, tutto tappezzato con divani a giro e con un magnifico stereo, comprato con i proventi della vendita di lumache raccolte di notte dopo i temporali estivi. Avevamo fatto pure il pallone a specchi che girava sopra le nostre teste. Lì passavamo le nostre serate invernali tra canzoni di De Gregori, Battisti, Venditti e ballate con Donna Summer e Barry White. Ma arrivando l'estate, la voglia di partire per qualche località marittima ci perseguitava. Dunque ci domandavamo quale località meglio di Gatteo Mare, visto che ne sentivamo parlare ogni giorno. Sì, ma come dirlo ai genitori? L'ostacolo maggiore era comunque come ottenere il permesso delle famiglie, visto che eravamo tutti minorenni. Noi eravamo dei ragazzi, eravamo tutti figli di contadini, perché dalle nostre parti i nostri genitori erano tutti contadini e i nostri genitori erano molto pratici, no? E volevano che imparassimo subito un lavoro, no? Dunque, finite le medie, si andava a fare quei 2 anni proprio canonici delle professionali in cui si imparava un lavoro e poi ci si metteva sotto subito. A 16 anni si era già pronti per andare nel mondo del lavoro. Eravamo tutti così, dunque eravamo già ragazzi molto svegli, molto responsabili, sì, la parola giusta. Non avevamo grilli per la testa, non c'erano deviazioni particolari tipo droghe o cose varie, eravamo tutti ragazzi sportivi, giocavamo tutti a calcio nella stessa squadra. Dopo estenuanti trattative, ognuno con i propri familiari, solo in 5 strappammo il passaporto per la ridente località rivierasca, ma avendo pochissime lire in tasca, l'unica possibilità per un soggiorno di almeno 2 settimane era trovare una tenda. Purtroppo i soldi per acquistarne una non li avevamo, ma la dea bendata ci sorrise e, parlando tra amici, scoprimmo che un nostro coetaneo di un paese limitrofo possedeva una vecchia tenda usata dai suoi genitori negli anni 60. Prendiamo la palla al balzo e il sabato successivo eravamo già in campo per addestrarsi al montaggio. La tenda era spaziosa, ben tenuta, un po' demodé, di colore bianco-rossa a strisce, ricordava gli accampamenti di qualche film che avevamo visto all'oratorio sull'impero romano, in ogni caso per noi era il massimo. Nella prova di montaggio però ci accorgemmo che mancava qualche sostegno, ma tutto sommato stava in piedi. Venne il giorno della partenza. Fummo accompagnati alla stazione di Brescia da mio fratello con una spaziosa Ford Escort rossa, eravamo in 5, più il guidatore. Uno in più, ma erano le 4 del mattino. In tasca avevamo 100.000 lire a testa. Pensavamo di essere in pochi sul treno, invece dovemmo fare tutto il viaggio in piedi, solo per qualche breve periodo ci alternavamo accovacciandoci sul saccone della tenda. Arrivammo a Gatteo Mare verso le 9.30 ed eravamo già stanchi. Spaesati e stralunati, cominciammo il tragitto alla ricerca di un camping. Mentre camminavamo, incrociammo molta gente che di buon mattino stava scendendo in spiaggia. Vedendo queste persone felici e apparentemente spensierate, già pregustammo la vacanza. Cominciamo la ricerca e purtroppo, dopo che l'ennesimo camping ci rifiutò con un "ci dispiace, è tutto esaurito", ci venne qualche dubbio che forse dovevamo prenotare. Al tempo non c'era né internet e neppure avevamo i telefoni fissi in casa. Poi nel nostro immaginario pensavamo che per i campeggiatori un posto sempre disponibile ci fosse. In fondo ci accontentavamo di un pezzo di terreno, quindi ci credevamo. All the leaves are falling, passed along the way. Vagammo fino oltre l'ora di pranzo, finché, sfiniti, decidemmo di farci una pizza in un locale trovato lì per lì, adiacente lo stradone che stavamo percorrendo, abbastanza distanti dal centro. Eravamo un po' delusi e stanchi, ci sedemmo a cerchio in un tavolo sotto la pergola fuori dal locale e ordinammo. Mentre mangiavamo, non ci passò inosservata la prontezza e la gentilezza dei gestori della pizzeria, una bella signora, dell'età dei miei genitori, poi il figlio poco più vecchio di noi, mentre dietro il bancone del bar si intravedeva un signore dai capelli grigi, palesemente più anziano della signora, che continuava ad osservarci, e una bambina, sui 12 anni, anch'essa collaborava al ristorante. A pancia piena, mentre ci rimettevamo a discutere sul cosa fare, il signore dai capelli grigi si avvicinò e con atteggiamento gentile ci chiese cosa stessimo per fare. Spiegammo che stavamo cercando un posto dove piazzare la tenda e purtroppo non ci fece nemmeno finire la spiegazione che ci offrì la possibilità di piazzarci dietro il proprio locale. Che culo, pensammo, che occasione. E mentre stavamo per uscire, il signore ci offrì un posto ancora più allettante, sotto una pensilina, al coperto. In cambio di tanta ospitalità, promettemmo al ristoratore di pranzare tutti i giorni da lui. Piantammo la tenda in pochissimo tempo senza curarci dei particolari, tanto eravamo al coperto. La sera eravamo già in centro a goderci l'agognata vacanza. Passarono i giorni e furono di puro divertimento. Conoscemmo molti ragazzi e ragazze, ci dilettammo in estenuanti giochi da spiaggia, numerose volte facemmo il bagno a mezzanotte, tutto filava per il verso giusto. Sul finire della vacanza, 3 giorni prima di ripartire, ci levammo lo sfizio di una bella cena a base di gamberoni, tanto il biglietto di ritorno l'avevamo già preso. Quella sera però cambiò anche il tempo e infatti iniziò a piovere. Rientrammo verso 1 di notte e l'effetto di un paio di birre a testa cominciavano a farsi sentire, tranne per il sottoscritto, perché la birra al tempo non mi piaceva. Infatti i miei amici si addormentarono subito, io invece stetti pensieroso a guardare in aria. Mentre mi stavo assopendo, una goccia d'acqua mi cadde sul naso. Dopo un'altra e un'altra ancora, allora allarmato uscii e mi accorsi che la tenda aveva fatto una pericolosa pancia d'acqua perché la pensilina non era purtroppo tenuta stagna. La desideravamo tanto con la vacanza e abbiamo fatto di tutto per andarci, ma siamo andati un po' però all'avventura, ecco, senza avere ben presente dove andavamo. Pensavamo che la cosa fosse un po' più facile, invece qualche disguido, però una volta risolto, come l'abbiamo risolta, come ho citato nella lettera, poi ci siamo divertiti, ma veramente, perché eravamo dei bravi ragazzi e non cercavamo guai, cercavamo solo il divertimento in tutte le sue forme. Chiamai subito l'intero gruppo, ma solo Alberto si svegliò e cominciammo con un manico di scopa lo svuotamento, un po' da dentro e anche da fuori, così facendo attirammo l'attenzione del ristoratore che si precipitò ad offrire il proprio aiuto. L'uomo ci suggerì di mettere dei teli che ci avrebbe fornito lui. Accettammo e a quel punto mi esortò a seguirlo in una buia cantina distante circa 80 metri. Mentre lo seguivo, stavo attento a non inciampare e arrivai sul posto un po' disattento. Infatti, il ristoratore aveva già afferrato i rotoli di telo e mi rimise sulle spalle. A quel punto iniziai il tragitto di ritorno, ma appena mi voltai, sentii afferrarmi forte da tergo e una sua mano infilarsi nei miei slip. Dopo un nanosecondo di sbigottimento, mollate le tende di colpo, cominciai a scalciare come un puledro imbizzarrito e, men che non si dica, mi liberai dalla morsa del malintenzionato e percorsi gli 80 metri più veloci della mia vita fino alla tenda. Arrivai gridando, svegliai giocoforza anche gli altri. Questi, stralunati, non capivano, ma visto il mio stato di agitazione mi fecero sedere e solo dopo un quarto d'ora riuscii a spiegare l'accaduto. Io ero paonazzo dalla paura, mai mi sarei aspettato una cosa simile da un signore che poteva essere mio nonno. Superato il momento ricominciammo lo svuotamento della tenda, ma fummo interrotti dal figlio del ristoratore che ci offrì di pernottare in una stanza gratuitamente. Dopo un primo diniego, alla fine accettammo e presi i nostri bagagli, salimmo in camera. Mentre stavamo riponendo i vestiti, aprendo l'armadio ci trovammo dentro un pacco di giornali pornografici, rari all'epoca. Ci guardammo negli occhi e capimmo che la paura stava diventando terrore. Pensavamo di essere finiti in una casa di depravati pronti a tutto. La notte dormimmo a fatica con sempre uno di noi sveglio alla guardia della porta. Poi, il giorno dopo, raccogliemmo la tenda e tutte le nostre cose e in sordina andammo alla stazione per far ritorno a casa in anticipo. Naturalmente tacemmo con i genitori. Ancora adesso, quando ci ritroviamo, questa storia ce la raccontiamo e la ricordiamo come fosse la data di un matrimonio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a Quando ho lanciato questa storia, la storia di Giancarlo, l'ho lanciata come una storia estiva, nel senso che ci sono tutti i presupposti e io la riconosco perché vengo da un paesino della provincia del nord e mi ricordo come si andava in vacanza tra amici all'arrembaggio e con pochi soldi, e quindi mi sembrava una storia super estiva. Poi diciamo c'è un pochettino la parte thriller o noir a un certo punto della storia, però in qualche modo rimane una storia estiva. Pronto, ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao. Senti Giancarlo, quanti anni ha questa storia? Più di 40, perché tu hai 60 anni grosso modo, giusto? Certo, è il primo anno in cui ho cominciato a lavorare, eravamo nel 76, dunque avevamo 17 anni, sì. Quindi avevi cominciato a lavorare da minore ancora, non avevi neanche 18 anni? Sì, noi all'epoca era così, andavamo alle medie, facevamo 2 anni di professionali, e che erano molto formative all'epoca, erano molto buone quelle scuole lì, e poi si andava al lavoro, si era già pronti per il lavoro a 20 anni, quando poi si partiva militare eravamo già operai fatti e finiti. Cosa fai oggi poi? Com'è proseguita la tua vita? Ma io la mia vita è proseguita che dopo quella storia, paradossalmente non è merito della storia, no? Comunque per i motivi di riflessione ho ripreso gli studi, no? E però ho continuato a lavorare, li ho ripresi la sera, mi sono poi diplomato nell'80 e faccio geometra in una ditta di scavi, una ditta edile che fa lavori stradali. Senti, la prima cosa che mi viene da chiedere è: ma voi avete mai capito se i familiari erano a conoscenza o addirittura complici di questo vecchio che era così, era un guardone di fatto, molestatore sicuramente. Era un guardone, e poi ripensandoci successivamente, noi tutti i giorni andavamo lì a mangiare e andavamo lì in slip in canottiera, non pensavamo certo. Cose di questo genere, ma era apparentemente una bellissima famiglia con una bellissima donna e poi 2 figli, uno dell'età nostra e una bambina di 12 anni, ma tutti molto gentili e disponibili. Ma secondo me, non, anche se poi avevano pensato di tutto, secondo me era solo... Non sapevano nulla, sì, era una roba... Tra l'altro appunto storie come queste, ci tengo a dirlo, nel senso che adesso Giancarlo, proprio perché sono passati anni e perché è diventata una cosa goliardica tra amici, ce l'ha raccontata, ma oggi esatto. Questa cosa sarebbe da denuncia, ovviamente, perché di fatto è una molestia fatta e finita. Immagino che voi abbiate lasciato stare, giusto? Cioè siete semplicemente, ve ne siete andati. Certo, allora noi, cosa vuoi, non sapevo nemmeno. Certo, non c'era neanche la cultura. Si esisteva una parola che si chiamava pedofilia, perché alla fine di quello si trattava, non la conoscevo nemmeno, no? Non la conoscevamo, ma anche perché questi casi non erano, non c'era i media che parlavano all'epoca, adesso invece ce ne sono tutti i giorni, dunque mai ci saremmo aspettati. Poi per noi, la persona adulta, il papà era una persona sacra, una persona saggia. Chiaro, sì, no, infatti immagino, questo è una questione che mette in discussione proprio l'identità delle figure a cui siamo abituati, quindi immagino la cosa scioccante per un ragazzino di quell'età. Senti, sei più tornato a Gatteomare nella tua vita oppure hai cambiato località di vacanza? No, ci sono tornato più volte, dunque sono tornato 2 anni dopo, ma ancora con una combricola di amici, eravamo in 12 o 13, ma eravamo in un hotel, avevamo le macchine, e Gatteomare era un po' il feudo del nostro paesino, che siamo tanti, trovavamo un sacco di gente là del nostro paese, ed era una meta per noi. La Riviera Romagnola era Gatteomare, certo. È come, non so, quelli di Milano che vanno a Milano Marittima, non lo so. Sì, no, ma poi succede proprio così. Anche al mio paese c'era qualcuno che andava ad Alassio in Liguria e tutto il paese andava ad Alassio, però sì, era proprio una questione di vicinanza. Giancarlo, senti, ti ringrazio molto per la tua storia e per il garbo con cui ce l'hai raccontata. Grazie davvero. Grazie a te. Ciao. In bocca al lupo per tutto. A presto. Grazie, ciao. Grazie mille a Giancarlo per la sua storia, per questo ricordo che in parte è molto estivo, fa parte delle vacanze di ognuno di noi quando avevamo pochissimi soldi, ma con una tenda ci sembrava di poter conquistare il mondo, dall'altra invece di fatto ha a che fare con una molestia, quindi non è così divertente, anche se oggi è diventato quasi un aneddoto che si raccontano tra loro amici. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Scusi, ho frainteso. E dopo la prima storia, ora ve ne raccontiamo un'altra. È una storia che però non ha a che fare con i gusti sessuali e con fraintendimenti di quel tipo. Ha a che fare con un fraintendimento, con un malinteso, che porterà un giovane uomo giapponese a vivere come se fosse letteralmente all'interno di un Truman Show, ma consapevolmente. È la storia di Nasubi e del primo grande fratello televisivo in Giappone. State con noi. Nasubi in giapponese significa melanzana. È un soprannome che è stato inventato per via della faccia allungata del protagonista di questa storia. Quando i produttori televisivi contattano un giovane comico giapponese di 22 anni che ha appena iniziato la sua carriera, gli dicono che hanno un'idea nuova per uno show televisivo, qualcosa che non è mai stato fatto prima. Potrebbe anche non andare mai in onda, gli dicono, ma se accadrà, lui sarà la star e diventerà famoso. I produttori quindi lo bendano, lo mettono su un'automobile e lo portano in un piccolo appartamento, poi gli dicono di togliersi i vestiti. Questo lo sconvolge non solo per il fatto di doversi mettere nudo davanti a una telecamera, ma perché quando ha iniziato a fare il comico, Nasubi aveva fatto un patto con suo padre, un poliziotto in servizio attivo in Giappone, quello di non fare mai scene di nudo, mai. Ma tant'è, accetta e si spoglia. Afferra un cuscino e lo tiene sull'inguine guardandosi intorno. Non c'è una sola sedia nella stanza, niente letto, solo un tavolino da caffè e riviste. Tonnellate di riviste. I produttori gli dicono che d'ora in poi qualsiasi cosa di cui lui avrà bisogno, cibo, vestiti o altro, lo dovrà vincere giocando alle lotterie che si trovano nelle riviste sul tavolino. È un'usanza giapponese, spesso nelle riviste si trovano delle lotterie nelle quali si vincono piccoli oggetti o anche delle vacanze. Dopodiché gli consegnano le cartoline da inviare per i premi. Lui sarà liberato solo dopo aver vinto premi per 1 milione di yen, l'equivalente più o meno di 8.000 euro. fino a quel momento non gli sarà permesso alcun contatto esterno con il mondo, non potrà chiamare la sua famiglia, non potrà parlare con gli amici. Prima di andarsene e lasciarlo solo, gli ricordano di non dimenticarsi di mettere i nastri in una piccola videocamera ogni 2 ore e schiacciare REC per registrarsi. Loro verranno a prendere i nastri una volta al giorno. E poi gli dicono: va bene, a dopo. Nasubi non ha firmato nessun contratto, ma non ha niente di meglio da fare. Così si siede e inizia a scrivere. E presto riesce a compilare 200 o 300 cartoline della lotteria al giorno. Ma mentre aspetta di ricevere i premi, lui non ha cibo. Inizia a dimagrire molto rapidamente. Affamato è la parola giusta da usare, racconta Nasubi. Dopo qualche giorno la produzione si è riunita e ha deciso di darmi del pane ogni giorno. Così ho avuto pane e acqua essenzialmente per le prime 2 settimane. Ma poi, non appena le lotterie hanno cominciato a dare risultati, niente più pane e tutto si è spostato completamente verso le cose che avrei potuto vincere attraverso i concorsi a premi. Dopo 2 settimane vince alcune bevande zuccherate, pochi giorni dopo un sacco di riso. Quando arriva al postino è come se fosse Natale. Nasubi inizia a ballare come un matto da solo davanti alla telecamera. Inizialmente, racconta, ero lì come attore, il mio obiettivo era quello di fare il comico, così mi avevano detto. Ma dopo poco la sopravvivenza è diventata la mia occupazione a tempo pieno. Quindi, quando ballavo, non facevo spettacolo. Era realmente solo un essere umano che esprimeva una grande gioia. Lo show si intitola La Lotteria della Vita. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Nel 1998 c'è stata una specie di enorme mania per le lotterie in Giappone. Il paese era nel mezzo di una terribile recessione e alcuni si chiedevano se si potesse sopravvivere interamente solo vincendo alla lotteria. E così, quando lo show ha debuttato, è stato un successo immediato. Nasubi ovviamente non ne aveva idea, non sapeva nemmeno che fosse già mandato in onda in TV. Credeva a quello che gli avevano detto i produttori, che avrebbe registrato alcune videocassette e forse un giorno sarebbe finito in onda. Sullo schermo le parti intime di Nasubi erano nascoste da una melanzana viola che galleggiava coprendolo mentre lui si muoveva. Tutto ciò che faceva inoltre era sottolineato da ridicoli effetti sonori tipo boing boing o enormi lettere color arcobaleno che fluttuavano sopra la sua testa. La regia coglieva ogni occasione per prendersi gioco di Nasubi, sia che stesse borbottando tra sé, ballando o facendo monologhi terribili. Le cose stupide che si fanno quando si pensa che nessuno ti stia guardando, esattamente quelle. Per capirsi, negli Stati Uniti la famosa serie TV Game of Thrones ha solitamente circa 9 milioni di spettatori. Nasubi ne aveva 16 milioni in un paese grande meno della metà. Gli spettatori sostenevano che Nasubi fosse la commedia più divertente che avessero mai visto. In quei giorni Nasubi vince centinaia di premi, ma molti di questi erano inutili per lui, cose come biglietti per concerti delle Spice Girls, o un televisore senza cavo, o una bicicletta. Ha cercato di vincere dei vestiti, ma non ha mai vinto nulla che potesse indossare. Era nudo per tutto il tempo, per l'intero show. E con il passare delle settimane e dei mesi, Nasubi è iniziato a sembrare sempre meno presente a se stesso. Gli è cresciuta la barba, i suoi capelli erano scompigliati, e ha iniziato a parlare in modo diverso da prima, più lentamente. Faceva facce davvero raccapriccianti. A un certo punto vince alcuni giocattoli e comincia a parlare con loro. E poi finalmente Nasubi vince 1 milione di yen in premi. Gli ci è voluto quasi un anno intero per farlo. Alla fine però ha completato la sfida. Una volta raggiunto il suo obiettivo, i produttori non gli dicono niente. Si intrufolano nel suo appartamento nel cuore della notte, gli mettono una benda sugli occhi, lo caricano in macchina, gli danno dei vestiti. Nasubi è contento, ride. Lo portano in Corea, gli fanno fare un giro in una città sconosciuta, poi lo portano in uno studio televisivo dove è stata ricreata esattamente la sua stanza in cui ha vissuto per un anno e gli dicono: ricominciamo da qui, ripeti tutto quello che hai fatto, ma in Corea e non in Giappone. Nasubi capisce che sta per ricominciare tutto. Non vuole, si impunta, vuole tornare a casa, ma il produttore lo convince dicendogli che diventerà una star. Titubante Nasubi accetta e ricomincia la solita routine. Le lotterie, l'attesa delle vincite, comincia anche a tenere un diario dove scrive quello che prova. Dopo diversi mesi raggiunge l'obiettivo del 1.000.000 yen e la notte i produttori di nuovo lo caricano bendato in auto e lo portano in un'altra stanza simile a quella in cui ha vissuto per 2 anni. E qui, all'improvviso, le pareti della casa crollano. Nasubi urla terrorizzato, si trova in un enorme studio TV pieno di gente che lo applaude e 2 conduttori che gli parlano piano come fosse un bambino. Nasubi era convinto che fosse un esperimento, non sapeva che aveva già milioni di spettatori che lo avevano guardato ore e ore non fare nulla, nudo, mentre compilava cartoline della lotteria. È frastornato. I conduttori gli dicono che i suoi diari sono diventati libri venduti in migliaia di copie. Gli dicono che lui oggi ha milioni di fan. È uno shock enorme. Ci vorranno anni perché Nasubi si riprenda da quei 2 anni vissuti in una stanza. Oggi Nasubi continua a lavorare in TV, ma la sua carriera di comico non è mai decollata come sperava. Gli hanno sempre e solo offerto parti in reality show o programmi in cui fosse nudo. Non è triste oggi, racconta, ma nemmeno felice. La storia di Nasubi noi l'abbiamo sentita a This American Life, raccontata da un corrispondente giapponese, una storia che risale a diversi anni fa, ma se andate su YouTube e digitate Nasubi, scritto proprio così com'è, con la I finale, vedete dei video di questo giovane uomo, sono video anche piuttosto tristi. È stato non solo lui aveva frainteso, ma è stato a tutti gli effetti torlupinato, cioè è stato preso in giro da quei produttori. Non so se lui abbia fatto causa, non so se ci sia una causa legale in corso, ma tant'è, lui continua ad essere in qualche modo un personaggio televisivo, anche se la sua storia è una storia davvero terribile e incredibile. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo qui a raccontare la storia di Antonina Zotti. Linee d'ombra. Insomma, ormai siamo alle tappe finali del racconto di Antonina Zotti, della sua storia, della storia di suo papà, il padre che viene ucciso dalla mafia nel 1946 e lei, dopo aver vissuto nella miseria e nella vergogna per aver avuto un padre ucciso dalla mafia, viene letteralmente riabilitata grazie al suo racconto, al racconto che fa durante le celebrazioni per Giovanni Falcone, diventa una storia pubblica, lei diventa un personaggio pubblico, va in TV, finalmente se ne parla, si ricorda suo marito e suo padre, perdonatemi, e a un certo punto anche il suo paese, Baucina, che è un paese piccolo dove lei aveva vissuto per tutta la sua giovane età, aveva lottato con la madre e col fratello, riconosce finalmente la figura di Nicolò Azzotti e lo fa nel modo che stiamo per raccontarvi. C'è stato il periodo successivo alla strage in cui a ricordare qualche vittima faceva onore alla comunità che lo faceva, insomma, cioè, e quindi anche in Baucina non si è sottratta a questo dovere, anche perché, non lo so, quella è una realtà in cui non è mai limpida, non si schiera mai dalla parte dell'antimafia apertamente. Comunque questo episodio poteva servire anche alla comunità e all'amministrazione comunale. E comunque hanno deciso di dedicargli una via, un busto bronzo, e poi la cosa importante è stato un convegno storico partecipato. A 46 anni dall'uccisione di Nicolò Azzotti, dopo che le stragi di Capaci e Via D'Amelio hanno fatto esplodere una nuova sensibilità politica, gli amministratori baucinesi sentono il bisogno di ricordare e fare ricordare il proprio concittadino caduto nella lotta alla mafia. Seppure lanciata nella corsa verso il liberatorio riscatto della memoria, io non sono stata neppure sfiorata dall'idea di una possibile riabilitazione del comune di Baucina nei confronti di Cola Azzotti, perciò è grande la mia sorpresa quando apprendo della possibilità di un atto celebrativo ufficiale. La commemorazione avviene il 29 maggio 1995. La cerimonia si svolge nella casa del pellegrino di proprietà della confraternita di Santa Fortunata, ma è solo la struttura rinnovata di quella che fu la nostra casa e ancor prima la falegnameria di papà. È grande l'emozione di ritrovarmi a commemorare papà nel luogo in cui si è svolta tanta parte della nostra vita. Partecipa un pubblico numeroso, c'è Baucina e c'è anche Palermo. Ci sono amici, conoscenti, colleghi, curiosi, bambini miei allievi e le loro famiglie. L'amministrazione comunale è al completo e ci sono rappresentanti della giustizia, della politica, della cultura, del sindacato che, con migliaia di manifesti, ha pubblicizzato l'iniziativa sia nel capoluogo palermitano che nei paesi della provincia. Ho la sensazione che tutto partecipi alla mia festa e per la prima volta mi sento orgogliosa del mio paese. Questa attestazione va dritta al cuore e mi ripaga di tutte le sofferenze di una vita. Provo tanta commozione, ma anche fierezza. Il discorso celebrativo si conclude con i tanti nomi delle vittime della strage perpetrata tra il 45 e il 48, culminata con l'eccidio di Portella della Ginestra. Sento rivivere insieme a mio padre anche tutti gli altri che fanno parte del triste elenco. La piena convulsa di tutto ciò che da quel lontano 46 è stato compresso e represso nell'angosciosa costrizione di argini murati da altri, finalmente defluisce in onde che si susseguono dense di emozioni intense ma ordinate. Non parlo del sindacalista né della vittima dell'eccidio mafioso, parlo dell'uomo che tanto presto mancò alla sua giovane moglie. Parlo della famiglia resa orfana, racconto la notte del delitto vissuta da due bambini in tenerissima età. Racconto la giovane madre vista dai suoi figli, rimasti figli a metà perché figli solo a lei e non più a suo marito. Racconto la mia sofferenza e la mia triste infanzia nel tentativo continuo di instaurare un rapporto, anche solo immaginario, con un padre che tutti mi avevano fatto credere colpevole della sua stessa fine, per non essersi fatto i fatti suoi. Non si perde una sola parola in quella sala che vibra assieme a me di consapevole emozione. Mi chiedo come sia riuscita a dire tanto. Papà, dico tra me, papà, per te, finalmente. Abbandonata la sala, mi ritrovo tra i convenuti, pronta a tirare giù il drappo rosso che nasconde la targa collocata all'esterno della casa, via Nicolò Azzotti, segretario della Camera del Lavoro. È un'altra emozione assaporata e vissuta con gioia. Pochi passi più avanti mi attende l'ultima tappa di quella marcia vittoriosa, il busto bronzeo collocato all'ingresso del municipio. Lo bacio commossa. Ora so che anche questo bronzo resterà a memoria di Nicolò Azzotti. Tutto si è compiuto come era previsto e programmato. Il sindaco mi porge una targa incisa alla signora Antonina Azzotti, l'amministrazione comunale di Baucina, a ricordo perenne del sacrificio di Nicolò Azzotti. La terrò stretta tra le mani tornando nella mia casa di Palermo, mentre la mia mente terrà stretti tutti i momenti di una giornata lunga, intensa e indimenticabile. Fuori di me silenzio, ma dentro di me immagini e sensazioni che si sovrappongono. Tra queste un senso di leggerezza che cerco di interpretare. Mi dico che non è solo la conclusione di una giornata resa frenetica dall'intensità degli avvenimenti, no, da oggi non sono più orfano, ho ritrovato mio padre. Da allora la storia di Nicolò Azzotti è diventata una storia pubblica, una storia che finalmente si può scrivere, leggere e nel 2020 anche raccontare alla radio. Il busto che lo ritrae, la via che porta il suo nome, la borsa di studio agli studenti di Baucina, il libretto che racconta la sua storia distribuito a scuole e biblioteche, il mio impegno quotidiano gli restituiscono il diritto alla memoria. Mio padre non morirà più. Per me dare una collocazione a lui, dare un senso alla sua morte, significa anche dare un senso alla mia vita. Questo. Allora, questo ragazzo mi scrive, ora è laureato, è impegnato alla carriera universitaria davanti, e lui mi dice questo: la signora Azzotti è stata la mia maestra. Già alle scuole elementari ci ha insegnato a combattere il silenzio raccontando, senza retorica, ma con grande passione, l'orrore mafioso a noi che eravamo solo dei bambini. Ci ha insegnato a sognare una Sicilia libera, ad adoperarci per realizzare il nostro sogno. Oggi ho 22 anni e sono convinto che la mia coscienza e la mia passione di cittadino siano nate allora. Le sono grato per questo. Questa era bambina insieme agli altri bambini sotto l'albero Falcone quando io ho fatto l'intervento. che nessuno sospettava, i miei bambini sono rimasti di stucco e l'indomani sono venuti tutti accompagnati a scuola dalle loro mamme perché si sentivano così a disagio per una maestra tanto sofferente secondo loro, anche se la vedevano allegra, giocosa, gioiosa, però avendo saputo questo l'indomani vennero tutti accompagnati i miei alunni e lui era uno di questi, Andrea, ed era sotto l'albero Falcone quel giorno. Molto bello. Molto bella. Sì. Senti Antonina, io ti ringrazio tantissimo davvero di tutto questo tempo che mi hai dedicato. Se hai bisogno tu chiamami. E noi la chiameremo domani Antonina Azzotti, perché vogliamo sentire la sua voce, vogliamo sapere appunto anche molto semplicemente come sta, a che punto è della sua vita, visto che ce l'ha raccontata così dettagliatamente e senza vergogna, senza pudore, senza freni, quindi le siamo molto molto grati per quello. E domani, nella puntata di domani appunto, ascolteremo direttamente la sua voce. Io ringrazio lei, ringrazio Mauro Pescio che la raccoglie, la sua storia, ringrazio Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo puntualissimi domani per l'ultima puntata della stagione di Linee d'Ombra e poi da lunedì ricominceranno il meglio di alle 16 non alle 15, ma domani ci godiamo tutta l'ultima puntata della prima stagione per poi ritornare diretti il 31 di agosto con la seconda stagione di Linee d'Ombra. Ora linea al GR, a domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!